Io sono un politico, ho bisogno di indicazioni concrete. Tu sei un uomo come tutti gli altri. Ami il potere? Sì, magmaticamente. Sei pronto a cederlo? E a chi? Non c'è nessuno meglio di me. Sai, io credo di avere una missione da compiere, sì. Hai le stigmate? Sì, a volte mi pare di vederle. Sì. Guarda, anche adesso, vedi? Io non le vedo. Tu sei come gli altri. Fuoco alle polveri. Go Hal and Paul Very Radio Bomba. This is Radio Bombat. Florence Owen Thompson, 32 anni e madre di 7 figli, sul viso tutti i segni di una vita densa di sacrifici e sofferenze. Siamo negli Stati Uniti, anno 1936. Gli effetti della Grande Depressione, cominciata il 29 ottobre 1929 con il cosiddetto martedì nero della borsa di Wall Street, sono ancora durissimi. Il prezzo più alto lo pagano le classi meno abbienti, costrette a fare di tutto per sopravvivere. Florence, con suo marito e i figli, dopo aver raccolto le barbabietole nella Imperial Valley, si stava spostando verso Watsonville per cercare lavoro nei campi di lattuga. Dovettero fermarsi per una rottura della vettura su cui viaggiavano. Rimasti senza lavoro e a corto di viveri, finirono per vendere i pneumatici della loro automobile per sfamarsi. Proprio in questo tristissimo frangente, Florence venne immortalata in 6 scatti da Dorothea Lange, fotografa che stava realizzando una serie di reportage sulla condizione dei migranti, dei braccianti e degli operai tra il 1935 e il 1939. La foto più celebre prenderà il nome di Migrant Mother. Dorothea raccontò: «Non ho chiesto il suo nome e la sua storia. Mi ha detto che aveva 32 anni e che avevano vissuto raccogliendo verdure congelate dai campi circostanti e uccelli morti. Solo 40 anni dopo, Florence scoprirà di essere diventata famosa grazie a questo scatto. Colpita da un ictus, rivelò di essere la Migrant Mother e ricevette $35,000 di donazioni per potersi curare. Morì il 16 settembre 1983. Sua figlia Catherine, intervistata alla CNN, dirà che la madre era una donna forte, la spina dorsale della famiglia e che spesso si privava del cibo ma non aveva mai lasciato nessuno dei suoi figli a stomaco vuoto. Florence, 29 ottobre, da Cronache Ribelli, Almanacco di Utopie Reali, Identità Indelebile e Rinnovata Memoria. Questo è il saluto di Fuoco alle Polveri. Ciao a tutti. Un po' da Grande Depressione, un po' da Grande Depressione, sì. Joao. Buonasera, abbiamo in regia Glenda Lago, oh. Abbiamo qua Tuco con noi, abbiamo ospiti dal CAS e dalle Spine nel Fianco, due compagni che sono stati protagonisti nei giorni scorsi. Tantissime cose in questa rubrica di oggi. Oggi facciamo? È appunto il 29 ottobre, 29 quindi ottobre. È 89 anni dall'inizio della Grande Depressione. Bravo, hai fatto il calcolo. Beh, bravo. Bravissimo. E sì, sì, esatto, sì, ne sono seguite forse Wall Street, ne sono seguite altre e anni bui, fra l'altro, sì. Per un po' tutto il mondo. Sì. Oggi che facciamo, caro mio Bricco? Allora, facciamo, abbiamo appunto i compagni che sono stati protagonisti nello scorso fine settimana nel corteo, nella preparazione del corteo, nel corteo studentesco lanciato dalle sigle CAS e Spine nel Fianco e CUA a Firenze, ma non solo, poi avremo anche le voci dei compagni che purtroppo mercoledì hanno ricevuto insomma si è conclusa l'udienza per i fatti del dicembre 2014 alle Piagge, certo. Sentiremo anche la loro voce, una voce speciale di un artista comparso sui muri fiorentini nelle scorse settimane, sì. E poi naturalmente rubriche, l'esordio di una rubrica che non ti sto a dire perché no, è bellissima, l'Uro dei Balcani, e magari ci sarà spazio anche per un po' di sport e capitalismo, motori. Dai, mandiamo una canzone e ci sentiamo tra poco. Thank you. Torniamo a regia dopo il fantastico pezzo mandato dal Grande Lago, che ora magari ci racconta anche, ci dice anche il titolo. Ma non ha il microfono. Non ha il microfono, allora no, non ve lo dice il titolo. Nessuno lo saprà mai. Nessuno lo saprà mai. Dovete andare a vederlo sul podcast, se a questo punto la regia farà la scaletta, perché la volta scorsa non è stata fatta. Mia colpa. Ai. Tornando a noi, abbiamo i compagni e le compagne, un compagno e una compagna delle spine nel fianco e del CAS, collettivo autonomo studentesco. Sono, come dicevamo prima, sono stati su, direi anche sulle prime pagine di diversi giornali per i fatti avvenuti a Firenze, ma non solo, perché poi era una giornata di mobilitazione generale, non ci sono stati solo gli studenti in piazza, bensì diverse realtà. Successivamente ne è seguita anche un'azione, se non mi sbaglio, poi ci racconterete, ed addirittura vi ho visti a Roma. Quindi iniziamo intanto dalla manifestazione. Perché l'avete chiamata? Naturalmente non lo sappiamo, ma ascoltatrici e ascoltatori saranno contenti di sentirselo dire ancora. Allora, intanto ciao a tutti e a tutte. Inizio col dire che la giornata era inserita in una due giorni chiamata dai Sihobas, che chiamavano uno sciopero in ogni città il 26 e invece il 27 la manifestazione nazionale a Roma. I Sicovas lanciavano questa giornata contro il razzismo del governo Salvini e contro lo sfruttamento. Noi il 26 siamo scesi in piazza con un corteo studentesco proprio per far sentire la nostra voce contro questo governo, anche dati gli ultimi avvenimenti. Abbiamo visto tutti quello che è successo a Lodi con il fatto dei bambini stranieri che non possono mangiare nelle mense ma devono mangiare nelle classi con i panini, insomma. Tutti questi fatti ci stanno dimostrando come il governo Salvini stia cercando di creare una divisione fra bambini stranieri e bambini italiani fin da piccoli, così da creare poi una divisione anche quando si cresce. Inoltre siamo scesi in piazza perché oltre a tutte le condizioni di razzismo, di divisione, di violenza che questo governo sta portando, abbiamo notato che da qualche mese c'è un assoluto, la scuola sta andando verso una diminuzione della cultura. Per esempio a Firenze negli istituti tecnici e professionali le ore di storia stanno diminuendo. Questo significa, sono state diminuite, insomma, sono i professori che decidono quante ore fare di storia. Questo significa che il programma di storia arriva fino al 1800 più o meno, viene eliminato l'ultimo secolo di storia, quindi la parte è pericoloso conoscere l'ultimo secolo di storia? È la parte più importante secondo me per capire quello che sta succedendo oggi, nel senso che senza conoscere tutta la storia del colonialismo da parte degli stati europei non si può comprendere le ragioni per cui questa gente è costretta a scappare dal loro paese e a venire qua. Coloro che votano Salvini pensano che sia tutto un divertimento per certe persone che cerchino di venire qua per vivere gratis, ma non è così. Insomma, conoscendo la storia dell'ultimo secolo si può capire quali sono le vere ragioni di quello che sta accadendo. Decisamente. La vostra mobilitazione è iniziata fin da giovedì, però, se non mi sbaglio. Allora, abbiamo iniziato facendo una conferenza stampa rilanciando il corteo in Piazza del Duomo, una conferenza stampa che aveva appunto l'obiettivo di parlare con il numero maggiore di giornali possibile, che si è conclusa bene in realtà. Abbiamo aperto uno striscione davanti al Duomo con scritto Salvini assassino, ovvero con scritta fondamentalmente secondo noi la verità. La verità come sempre si è rivelata scomoda, nel senso che mentre venivamo via da Piazza del Duomo siamo stati fermati dalla polizia che insomma ha voluto ritirare lo striscione, ha voluto dare delle denunce agli studenti e alle studentesse che erano in piazza. Denunce per la precisione? Per vilipendio e per corteo non autorizzato. Ora, ovviamente il corteo non autorizzato è un surplus dato tanto per, ma anche vilipendio noi riteniamo che sia un reato che fra l'altro al giorno d'oggi esiste solo in Italia, un reato che sia assurdo, perché se un paese si vuole definire democratico non c'è verso che non si possa esprimere la propria opinione su chi è effettivamente al governo. È una follia, sì, il reato di vilipendio è veramente una cosa da 800, per appunto. Sì. No, fra l'altro non mi sembra che le alte cariche dello Stato parlino molto bene di altre cariche dello Stato, cioè, quindi vabbè, comunque. Questo vale per voi, voi fatevi il pendio. Sì, sì, sì, no, no, ma però non, c'hanno non immunità, diversi hanno l'immunità, quindi se loro vediamo i loro post su Facebook non parlano bene nemmeno di noi, perché abbiamo visto i commenti sotto il post di Salvini. Vai. La gente non si risparmia, diciamo. No, anche lì se anche noi utilizzassimo quelle stesse categorie ci sarebbe materia per non so quante denunce sotto in quei post, però insomma. Verissimo, e quindi abbiamo detto giovedì voi avete fatto la conferenza stampa, sono seguite le reazioni anche per il volantino che voi avete diffuso, avete attacchinato fra l'altro un sacco di posti, bravi. Perché appunto questo volantino aveva come immagine la faccia di Salvini con davanti un mirino, non è stata, diciamo, presa bene questa immagine che abbiamo diffuso. Nonostante questo siamo scesi in piazza, anche il collettivo Spine appunto è riuscito penso a portare un punto di vista femminile rispetto a quanto sta accadendo oggi in Italia. Ci abbiamo tenuto a ribadire che le donne, le studentesse in questo caso, non ci stanno davanti e sotto a un governo che continua a parlare al posto loro, che continua a giustificare gli stupri, che continua ad accusare sempre e soltanto gli stranieri, creandoci fondamentalmente dei finti nemici, che sappiamo benissimo appunto essere fasulli, sappiamo benissimo che il nemico delle donne è l'uomo violento, l'uomo che pensa di poter approfittare di loro come fossero oggetti, come fossimo oggetti. Quindi sì, o difenderlo anche, cioè o difenderle, ecco, nel esatto. Senso, poi alla fine è sempre questa opposizione da Masha, no? Che aggressore ma anche protettore. Esatto, quindi siamo scese in piazza appunto grazie per contro anche la finta protezione attuata dal governo Salvini. Ci abbiamo tenuto a ribadire che noi non cadiamo dalle nuvole, nel senso sappiamo benissimo che anche il governo precedente in modo più subdolo perpetuava anche rispetto alle donne lo stesso tipo di atteggiamento e di politiche. Abbiamo parlato, l'avevamo già fatto prima, ma l'abbiamo ribadito anche in piazza il 26 sui fatti di Firenze di settembre scorso, quando il sindaco Nardella ha pensato di giustificare a tutti gli effetti lo stupro delle due ragazze americane, fornendo una soluzione ridicola che non è ovviamente la soluzione alla violenza che ogni giorno subiamo. Rispetto a questo abbiamo voluto prendere parola anche sui fatti di Desiree, la ragazza che è stata stuprata e ammazzata la settimana scorsa a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, dove Salvini ha deciso di recarsi per appunto per fare quello che lui fa in queste situazioni, ovvero appropriarsi delle violenze maschili sulle donne per fare propaganda politica. Il quartiere fra l'altro sia a Nord di Cronaca, il quartiere si è, no, non è rimasto indifferente a questa cosa, si può dire che insomma è stato rigettato nonostante ci fosse magari anche qualche esatto. sostenitore, però qualche sparuto sostenitore direi, perché tutto intorno c'era un gran cordone di forze dell'ordine e poi tante persone arrabbiate. E quindi, fra l'altro, ho visto che ci sono state anche delle altre azioni mediatiche molto forti durante la manifestazione, però direi che è andata bene, molto partecipata, giusto? Sì, sì, la manifestazione è molto partecipata. Il motivo delle azioni è lo stesso del volantino che citavamo prima, nel senso noi crediamo che in questo momento il nostro dovere è di lanciare un messaggio forte. È un momento in cui la politicizzazione, soprattutto nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, sta scendendo sempre di più, e quindi il nostro dovere è quello di mandare un messaggio forte e farci sentire in ogni maniera possibile. E delle volte c'è bisogno di fare certe cose. Anche quel manifesto aveva bisogno di un messaggio forte, di qualcosa che catturasse l'occhio, e quindi è questo quello che ci sentiamo di fare, appunto, di creare delle situazioni che escano, che interessino la gente. Ecco, e quindi questo poi ho visto che è successo anche in tante altre città d'Italia all'incirca con un'impostazione simile, e ho visto poi che dopo la manifestazione avevate organizzato i pullman per andare a Roma il sabato, il 27, ma prima vi siete fermati a Prato. Sì, La sera prima, insomma, la sera fra venerdì e sabato c'è stato uno sciopero, un picchetto dei Sicobas in un magazzino a Prato e in uno a Calenzano. Un picchetto come, cioè, i Sicobas organizzano molto spesso picchetti, è il sindacato sicuramente più attivo al momento. E poi sì, circa 15.000 persone sono scese in piazza poi sabato a Roma, anche se i media si sono abbastanza disinteressati di questa manifestazione, ovviamente, e anche da Prato e Firenze sono scese circa 150 persone, quindi sì, anche sabato ci siamo fatti sentire, perché 15.000 persone in piazza sono tante. E c'era anche uno spezzone studentesco, quindi c'eravamo anche a Roma. Esatto. Allora, io dal punto di vista degli, nel senso, no, non direi curiosa, però quantomeno era una cosa che non si vedeva da un po' di tempo anche a Firenze, questo legame così stretto tra delle realtà studentesche e delle realtà invece sindacali, e poi naturalmente con tutto quello che comporta, quindi l'affaccio sul mondo del lavoro. Quindi volevo sapere, prima di tutto, che aria tira nelle scuole? Perché effettivamente i toni che vengono usati sia da una parte che dall'altra sono molto fermi, e questo mi chiedo, ecco, come una realtà come può essere la scuola, quella superiore tendenzialmente ancora non molto politicizzata, poi anche in futuro, anche negli anni dopo tendenzialmente le persone se ne sbattono, però ecco, eravate 1.000, tante persone sono andate a scuola, per dire, o lo stesso? No, in realtà, per esempio, ora noi parliamo per la nostra scuola, in particolare il Capponi, però tantissime persone sono scese in piazza per il 26, le classi erano veramente dimezzate, quindi il messaggio, secondo me, si sta facendo sentire, e anche nel modo giusto, nel senso che si sta portando avanti un pensiero, una pratica antirazzista giusta, che prende le distanze dalla finta sinistra precedente, che appunto si vendeva anche come un governo in qualche modo antirazzista, e che poi di fatto non lo era, l'abbiamo visto, non sono riusciti a fare i campi di concentramento in Libia, quindi voglio dire. Penso che tra gli studenti, questo è un discorso che abbiamo fatto anche molto spesso tra Spina e Cass, il pensiero razzista si diffonda anche con più difficoltà. Gli studenti hanno ancora, secondo me, e voglio anche sperarlo, un distacco quasi da queste tematiche qua, che perlomeno nella nostra scuola ad esempio non sentiamo molto. Però ad esempio nel mese scorso siamo andati a fare un corteo il 5 novembre nelle periferie, siamo andati fondamentalmente nelle periferie di Firenze Nord, e anche lì ci siamo resi conto di quanto le scuole siano molto più multietniche, e di quanto comunque questo messaggio, il messaggio antirazzista, passi e prenda gli studenti e le studentesse. Quindi è sicuramente un buon segnale, è quello che ci ha spinto poi a mettere così tante forze nella manifestazione di venerdì. Sì, noi come collettivo abbiamo un'idea ben precisa sulle scuole, nel senso che purtroppo, se andiamo a vedere, la maggior parte dei voti della destra vengono dalle categorie sociali più povere, e questo è perché probabilmente la destra negli ultimi anni è stata l'unica che è riuscita a dare alla gente una soluzione, benché sbagliata. E il nostro dovere è quello di dare una soluzione, di far capire qual è la nostra soluzione, qual è secondo noi la soluzione, e dobbiamo farlo. Forse negli ultimi anni spesso si è agito solo sulle scuole del centro, sulle solite scuole. La nostra ideologia è che dobbiamo cominciare a prendere gente, prendere ragazzi e ragazze dalle scuole della periferia, perché sono appunto le persone che sono più toccate da certi temi, e è ora di cercare di portare la politica anche in certe scuole dove non è minimamente affrontata. Non sono minimamente affrontati certi argomenti. E invece per quanto riguarda il lavoro, appunto, avete partecipato a un picchetto. Esatto, allora diciamo così, siamo scesi in piazza con i Sicobas perché, a parte il fatto che siamo consapevoli del fatto che dopo la scuola c'è il lavoro, e che molto probabilmente sarà un lavoro con delle difficoltà sicuramente simili a quelle, ad esempio, dei lavoratori del sindacato Sicobas. E poi fondamentalmente il messaggio che questo sindacato ha voluto portare in piazza è contro lo sfruttamento, uno sfruttamento che sentiamo molto palese anche adesso a scuola, non soltanto attraverso l'alternanza scuola-lavoro, ma attraverso proprio una sorta di mercificazione dell'apprendimento, del pensiero. Quindi aveva sicuramente un senso scendere in piazza insieme a questi lavoratori con cui noi già portiamo avanti un progetto da un po' di tempo all'interno del progetto IAM, quindi siamo tutti legati fondamentalmente anche sotto una stessa realtà e questo ci ha sicuramente permesso di dare del valore aggiunto alla giornata e renderla non solo studentesca ma anche operaia. Inoltre ci sono alcuni temi per cui si lavora come studenti e come lavoratori, ma poi ci sono alcuni temi come per esempio quello per cui siamo scesi in piazza venerdì, su cui bisogna agire come cittadini semplicemente, che si sia lavoratori, che si sia studenti, bisogna agire tutti insieme perché sono temi che toccano entrambi. Certo, sicuramente quando si parla di razzismo tocca a tutti, volente o nolente. E proprio riguardo a questo, il tema razzismo è sempre più presente nelle nostre comunità. C'è chi dice che è colpa dei migranti, ma questi migranti voi cosa ne pensate? La vedete è un'opportunità per noi, per tutti noi? Ma noi abbiamo anche ad esempio in preparazione al corteo proiettato un video allo spazio IAM in via Baracca fatto appunto da uno dei compagni del sindacato Sicobas che faceva vedere in pochi minuti come si è formata la situazione attuale. Quindi indipendentemente da cosa le persone ne possano pensare, queste persone arrivano qua per un motivo che abbiamo causato noi. Quindi è nostra responsabilità in qualche modo trovare, se anche vogliamo parlare, e io non ci credo, di emergenza e migrazione, trovare una soluzione, a questa cosa qua, proprio perché l'abbiamo causata noi. Inoltre non ci sentiamo di fare questa distinzione così grande fra italiani e stranieri, nel senso viviamo tutti sullo stesso pianeta e se c'è bisogno per alcune persone di emigrare in un altro posto, come diceva prima lei, per motivi oltretutto causati da noi, non capisco quale sia il motivo per dire di no. Fra l'altro migrare, cosa che fra l'altro noi possiamo fare tranquillamente Esatto. senza il minimo rischio, Esatto. senza veramente il Solo minimo che da noi problema. si chiamano Erasmus, quindi. Esatto. Allora, l'ultima cosa, l'ultimissima domanda ve la voglio fare perché anche il vostro approccio mediatico è una cosa che negli ultimi anni non è stata così comune da vedere e si può dire che funziona, nel senso che magari della manifestazione non hanno parlato intanto, ma del manifesto, insomma, dello striscione disteso, sì, anche del canotto buttato giù in Arno. Io ho visto le uniche cose che sono uscite sono quelle, però di fatto un messaggio, voi riuscite a veicolare un messaggio verso veramente tante persone. Sì, sembrava una cosa un po' una cavolata, ma effettivamente oggigiorno anche noi torniamo a casa, la prima cosa che fai magari è aprire Instagram o Facebook molte volte, quindi pensiamo anche che oggigiorno sia importante utilizzare i social network anche per questi motivi. Spesso ci viene detto no, ma i social network sono pieni di cose stupide. Beh, questo forse è colpa proprio nostra e non li utilizziamo per la cosa giusta. Cominciando a utilizzare questi mezzi, che sono i mezzi di comunicazione più utilizzati dai nostri coetanei, riusciamo a arrivare un po' a tutti e a tutte. Sì, quali sono diciamo, io sono un po' fuori dai social network. Quali Completamente fuori dai social completamente network. fuori dai social network, se la posso dire. Siamo su Facebook e su Instagram, Bene, dai. entrambi i collettivi. Ok, diteceli, dai. Spine nel fianco CAS Firenze sia su Instagram che su e Facebook. su Facebook collettivo Spine. Avete altri appuntamenti da lanciare? Futuri, assemblee? Semplicemente ci teniamo a dire che è iniziato l'anno, diciamo, con questa manifestazione non è finita la nostra lotta, ma è appena iniziata. Comunque, sia come CAS che come Collettivo Spine siamo nati da pochi mesi effettivamente, quindi la nostra lotta ha solo da continuare, l'anno è ancora lungo e quindi ci risentiamo presto. Ci ritroviamo il mercoledì alle 15 in via Baracca allo spazio IAM con il CAS e il martedì alle 15 sempre in via del Leone con il collettivo Spine. Bene, non lo so, avete altre cose da raccontarci? No, no, volete fare un salutino a Salvini? Ma ciao pure. Salvini, un bacio. Ciao, bene, grazie, grazie ragazzi, ragazzi. Grazie a voi. Benissimo, a presto. Mi ha mutato. Ecco, ti ha brutalmente mutato. Mi ha mutato, come... chi era? Boh. Tria è stato mutato a un certo punto qualche giorno fa, perché diceva troppe cose difficili e pericolose. Anche te c'hai il tuo burattinaio. Ma ci mandi una canzone, tesoro? Vai. Dici anche cos'è, dai, per favore. Una volta. Trovalo, microfono. Ecco il microfono. È una cover stavolta di Wake Me Up dei Rage Against the Machine, fatto da un collettivo Brass che si chiamano Brass Against the Machine. Bravo. Collettivo al femminile. Bravo. Collettivo al femminile. Tried to blame it on his. E rieccoci qua. Eccolo. Eccomi. Certo. No, c'ero, ero sul divano. Comodo, comodo. Eri sul divano, sì. Eri sul divano, comodissimo. Però ho ascoltato con interesse e felicità i compagni del cast delle Spine nel Fianco. Veramente grandi e competenti. Oggi siamo alla 74esima puntata di Pole Polveri. Perché ce lo ricordo, sì. 74. Come? Allora, 74, se voi digitate 74 su Google, vi dà la solita pagina Wikipedia pallosa in cui tendenzialmente c'è roba di astronomia e chimica. E invece? Ma sotto le proprietà matematiche, il 74 è un numero odioso. Che vuol dire? Non lo so. Come? Clicchiamo. In diretta, questa è Radio Diretta. Sì, Radio Verità. Clicchiamo sul numero odioso e vediamo che cosa vuol dire. Cioè, perché il povero 74 è un numero odioso? Avrà un significato scientifico questa cosa. Perché c'è il 7 e c'è il 4. Il 4, sì. Insieme. Ma no, ma mi era mandata al 4. Noi potremmo parlare di un sacco di cose, tipo sì, che ci sono in consiglio comunale adesso a Torino, stanno presentando la mozione per far finire definitivamente il cantiere TAV e fuori ci sono degli scontri, è stato vedo ora cacciato il centro-sinistra dall'aula e si sta succedendo un bordello. E potremmo parlare del governo che invece sul TAP, sull'altra grande opera, ha fatto una prima marcia indietro. Parte 5 Stelle ha fatto... Hanno bruciato la bandiera delle 5 Stelle l'altro giorno. Un'altra bagarre, potremmo parlare delle elezioni in Brasile, ma invece parliamo del 74. E invece no, perché non ci capisco la mazza. Si è infilato in numeri binari, vedo sullo schermo. Ma poi c'è un programma. Era un virus. 01, sì, porca miseria. È andata così. Va bene. Comunque, è il numero 74, siamo molto felici, è anche il numero atomico del tungsteno, se tu volessi, caso volessi saperlo, prego. Però, allora, la felicità di oggi non ci è data solo dai ragazzi del cast delle Spine nel Fianco, nemmeno dai prossimi ospiti, nemmeno dalla mia capelli, rubrica, sì, nemmeno nei miei meravigliosi capelli riccioli, sì, ma da una nuova rubrica, da una nuova rubrica, dal titolo... Animali dal mondo. Animali deciso dal adesso. Mondo. E vogliamo siglare. Sigla. Certo, sigla. Dopotutto, domani... Una bella bestia. Capolavoro, capolavoro. Eccoci qua. Una bella bestia. Una bella bestia, Sinitrisce. Sinitrisce, come mai questa rubrica? Non è... mi avete detto, ma che fai una rubrica? Sì, vabbè, facciamo una rubrica. E gli animali, perché mi piacciono gli animali e non avrà nessun filologico la faccenda, dimmi. Anche a De Lago piace. Oh, sì, lui è essere animale. Quelli mitologici. Sì, solo mitologici. No, un po' tutti. Comunque, ok. E niente, quindi ogni settimana, ogni volta che ci sarò un animale diverso, potete chiedere degli animali, se vi va di sentire degli animali. Potete... Cioè, un po' come i detti dal mondo. Cioè, un po' come detti dal mondo, però su... Sì, poi scegliere... Cioè, in realtà io ce l'ho caldi degli animali che mi piacciono tanto e di cui voglio parlare. Ma però infatti... magari posso dare una scelta e poi scegliere. La prossima puntata parliamo dell'ippopotamo e degli elefanti. E te allora, scegli. Puoi farlo, te lo dico per esperienza personale, molto pericoloso questo. Però pensa che tu parlavi dei detti del mondo, che è una cosa, un ginepraio, io parlerò di animali, di cui praticamente è stato scritto tutto, quindi questo è tutto abbastanza semplice. Questo è vero. Oggi? Parlo di un animale che in realtà non mi piace tanto. Sono un po' cominci così? Inizio così, perché avevo preparato un bel po' di tempo fa questa cosa, ma poi alla fine non ci sta mai stato verso, e quindi parlo delle zanzare. Questo... Ah, l'animale più odiato? L'animale più odiato dall'uomo. Ci sta. L'animale più odiato dall'uomo. Vedi, te ti piacciono le zanzare? Sì, non accende il microfono. Che vuol dire, povere zanzare? Lui ha un buon rapporto con le zanzare. Ma le zanzare, ecco, devono nutrire i mimmini. Chi? Le uova. Per questo vengono a pappare te. Ah, le piccole zanzare, dici? Piccole zanzare. È giusto dare un po' di sangue. No, comunque... Io ho una domanda importante, ma te la dirò dopo che avrei... Allora, espresso, certo, io non so sulle... Bene, si può iniziare. Comunque già avrei da controbattere al nostro Bricco, che ha detto una minchiata. sulle zanzare. Però in realtà, vabbè, ci arriviamo. Comunque le zanzare... Te conta che ci sono da tipo 250 milioni di anni sulla Terra. Mm. certo. E noi sì, tipo sì, da sì. 75.000, una roba del genere. E infatti mo basta. Te non ti si sente, caro? No, te parli, ecco. No, perché lo spengo, perché difende le zanzare. No, facciamo schifo in confronto alle zanzare, lo vedi? Cioè, sì, si fa cacare. Ma anch'io sono della tua sulle zanzare. Comunque, l'animale più odiato è l'uomo. Vabbè, brevi cose su come sono fatte queste bestiacce. Abitano, praticamente sono diffuse in tutto il mondo e principalmente intorno a dove c'è acqua, perché solo lì possono nascere. Fondamentalmente, e sono diversissimi tra maschio e femmine. Vabbè, a parte ci sono tantissime specie di zanzare, diverse decine di migliaia. Poi in Italia sono diffuse pochissime, ma nel mondo ce ne sono tantissime. Sono diversissime tra le maschi e le femmine. Sono proprio due animali diversi. I maschi tendenzialmente non servono assolutamente a niente tranne a fecondare la femmina. La femmina fa tutto il resto. Hanno proprio degli apparati fisici completamente diversi, sono fatte in modo totalmente diverso, soprattutto la bocca delle zanzare tra maschio e femmina è diversissima. La zanzara femmina ha questo apparato che si chiama pungente succhiante. Ah, sono loro che pungono, quindi? Solo femmine. E se uno si va a vedere poi tutta l'anatomia della bocca della zanzara, è una roba fighissima in realtà, certo. Ti vedi proprio tutte le differenze, soprattutto appunto perché la zanzara femmina è l'unica che può pungere e succhiare il sangue, da cui trae nutrimento. E di cosa se ne fa di questo sangue? Il sangue serve per poter cacciare fuori gli ovuli, poi. Le uova da cui poi nascono le piccole zanzarette. Senza la puntura che trae sangue non potrebbe far nascere i suoi figli. Esatto. E quindi è necessario. Il maschietto cosa mangia? Il maschietto si nutre di una sorta di zuccheri semplici che trova nell'acqua, trova un po' a giro. Non ha bisogno di sangue fondamentalmente. Okay. Mentre la femmina ha veramente bisogno di sangue. E oltre a essere succhiante, quindi oltre a tirare fuori il sangue, caccia dentro anche la sua saliva, che è anestetizzante. Ah. È il motivo per cui quando ti punge la zanzara tendenzialmente non te ne accorgi. Certo. Ma lo vedi, è anche buona, cioè non te ne è buona. Cioè, sì, poi dopo me lo racconti. E quindi serve, appunto, quindi la sua bocca è fatta apposta anche per iniettare la sua saliva, che è sia anestetizzante, quindi soprattutto sull'uomo serve a non farsi poi trebbiare prima di certo. pungere, ma serve anche perché è un attivatore di un feromone delle altre femmine che poi vengono attirate, quindi è un modo per far proseguire la specie. Segnala qui è buono. Sceglie in base a diverse cose la zanzara dove andare a pungere, soprattutto sull'uomo, ma è dovuto principalmente alla quantità e alla qualità dell'anidride carbonica che esce dal corpo. Ok. E quindi specialmente acido lattico, cioè l'anidride carbonica cambia quantità in base all'acido lattico quindi presente nel corpo. Uno sportivo dopo aver fatto sport è molto soggetto. E in generale il sudore, il calore, insomma. Ci sono diversi fattori che Del sangue dolce è una minchiata, totale. Il sangue non lo scelgono prima, scelgono dall'odore, non scelgono con il sapore le zanzare, cioè, non fanno la degustazione. No, cioè, è tutto legato all'odore. Okay. Anche la vista praticamente è quasi inutilizzata in questo frangente. Le larve delle zanzare, si diceva, che vivono invece stanno nell'acqua, a differenza di alcune specie sono mezze sommerse e mezze con la testa di fuori, altre invece stanno solo in superficie, perché si dice che sono acquaiole non acquatiche, cioè non hanno le branchie praticamente, quindi quindi non possono stare sott'acqua, devono prendere anche ossigeno. E le larve stanno un po' lì nell'acqua, poi a un certo punto iniziano a sfarfallare, si dice davvero sfarfallare, quando nascono le ali e poi escono dall'acqua. L'accoppiamento se lo fanno in volo tendenzialmente il maschio è richiamato dal rumore che fa la zanzara, quindi il rumore che sente la zanzara dice ma perché cazzo deve fare questo rumore qua vicino? Perché comunque è il loro attivatore per l'accoppiamento, quindi quello gli serve tendenzialmente, anche perché sennò sarebbe facile pungere senza quel rumore. Quindi esatto. Gli serve però per fare... Figliano tutto l'anno, lo sai? Figliano tutto l'anno, sempre. E dipende dalla specie, alcune si fanno 3-4 generazioni in un anno, altre qualche decina, quindi si riproducono molto molto velocemente, comunque, anche perché conta che da un parto una zanzara caccia fuori... qualche migliaio anche lì di... Migliaio? Sì, di uova. Quindi questo. Che si deve dire qua? Niente. Cambiamo pagina. Dai. Voilà. Ci sono appunto queste 3500 specie diverse all'incirca. In Italia ce ne sono soltanto una sessantina. Le più diffuse sono le anofele, che sono proprio le zanzare classiche, poi le zanzare tigre, chiamate così, e poi altre che si chiamano Culex o Aedes. E, che Culex. Il problema grosso di tutta questa faccenda è che le zanzare sono dei vettori di malattie infettive. Ci siamo arrivati. E questo è il grosso problema, poi, per cui stanno sul cazzo a tutta l'umanità, non soltanto a chi se li ritrova mentre dorme vicino, certo, al letto. E il problema è che portano proprio alcune malattie, tra cui la malaria, la dengue, l'encefalite, la febbre gialla e altre amenità del genere. Sì, sì, anche per gli animali. Anche per gli animali. Sì. Anche per gli animali. Aspetta, perché c'ho il mio povero, cane morì per malattia. Ecco, e vedi il mio odio per altro. Certo. Okay. È super giustificato il tuo odio. Sì, bravo, lesmaniosi. Comunque appunto anche gli animali sì, soffrono, certo, di questa cosa qui. In Italia comunque la malaria non esiste più, però altri tipi di infezioni vengono trasportate. E da qui, da questo odio dell'umanità contro le zanzare, è nato il tentativo dell'uomo di sterminarle tendenzialmente. Cioè, certo, la volontà comunque di sterminarle è stata un po' sulla bocca di tutti quest'estate. Una notizia che era... Poi ve la dico bene, ma è semplicemente che uno studioso, uno scienziato italiano ha trovato, sembra, il modo di sterminare le zanzare geneticamente. Per sempre. Sì. Boom. Poi ve la spiego un po' meglio. Comunque, la grande lotta contro le zanzare è iniziata negli anni 40, 30, 40 con il DDT, il famoso, certo, DDT. Che cos'è il DDT? È un chimicone fondamentalmente che veniva spruzzato sulle zone che erano infestate dalla malaria, venivano uccise così tutti gli insetti che potevano portarla, principalmente appunto le zanzare, e così in realtà è stata debellata la malaria, per esempio in Ciociaria e in Sardegna. Sta di fatto che però tra l'altro il suo inventore, che è questo Paul Hermann Müller, vinse anche il premio Nobel per la medicina nel 1948. C'è un però. Non solo, sì, forse cosa? Ti anticipo. Vai. Ma come, dove è stato provato il DDT per la prima volta? È stato provato qua, mi sa, no? Nell'Agropontino. Nell'Agropontino. Dice che appena, insomma, dopo, quando gli alleati stavano risalendo l'Italia, si trovarono nell'Agropontino, che era una zona che era già quasi completata, anzi si può dire che era completata la bonifica, ma erano ancora presenti delle sacche di malaria. Loro pensarono bene di provare questo prodotto nuovo e inondarono tutto l'Agrofontino di DDT, e poi dissero: bene, guarda, stanno bene, sono tranquilli, vai, diffondiamo tutto, tutto il mondo. Esatto, poi a un certo punto negli anni 60 degli studi hanno dimostrato che il DDT è una sostanza cancerogena, e quindi chi la inala fondamentalmente, o chi poi va in contatto con ciò che è stato toccato dal DDT, ha un rischio X maggiore di prendere il cancro, insomma. E quindi è stata vietata sia in Italia che negli Stati Uniti, che in diverse altre parti del mondo, non in tutte. In Italia fino agli anni 70, mi pare. Poi, per esempio, in India è ancora utilizzato, è sempre stato utilizzato. Il fatto che poi le zanzare abbiano sviluppato un apparato per cui una resistenza totale al DDT, certo, non serve per niente al DDT, nelle zone in cui il DDT è stato continuato ad usare. Una roba strana che gira su internet è una nostalgia del DDT. Una nostalgia del DDT, cioè se vi cercate DDT, ci sono un sacco di posti, di forum, che dice che è stato l'abbaglio più grosso del movimento ambientalista mondiale e che il DDT in realtà serve tanto. Veniva addirittura commercializzato con il Flit. Il Flit, ammazza la vecchia col Flit. Sì. Vi ricordate il simpatico motivetto? Che era uno stantuffone che sparava questa cosa qui, e veniva usato anche, è iniziato ad essere commercializzato dalla Standard & Oil anche come insetticida casalingo, ecco, per tutti i giorni. Quello che per noi oggi è la racchetta elettrica. Quello che per oggi è per noi è la racchetta elettrica, ma è anche l'insetticida con lo spruzzone. Certo. È la stessa cosa. Io qui c'ho anche un piccolo racconto del nostro amico Guccini, che ha scritto nel suo diario delle cose perdute un libro. Scritto, anche una definizione di Flit, scusate, ma non c'ho voglia. Vabbè. Si va a lunghi. Sì, detto questo, le Ma mettimelo in sottofondo, cioè... Grazie. Grazie. Ecco, con gli occhi da pazzo. Comunque, un'altra cosa, Ganza. Cioè, Ganza. Il DDT è stato studiato che poteva portare all'estinzione di diversi uccelli anche. Non perché se lo mangiavano, bevevano o inalavano, ma perché le uova perdevano completamente lo spessore del guscio, le uova degli uccelli, di fronte a... Quindi corrodeva. Esatto, e quindi praticamente non uscivano, cioè non riuscivano a nascere gli uccelli, non riuscivano a rimanere dentro. Pesus. Sì, sì, sì, quindi DDT alla fine è stato vietato, tranne che in... in certi paesi. Nel 2006 l'OMS ha dichiarato che in realtà il DDT usato in certe zone con certe quantità sarebbe buono, quindi si intuisce che nell'area c'è un tentativo di riportare in commercio questo tipo di sostanze per cosa? Perché tendenzialmente nel mondo ci sono circa 2 milioni di morti annui per la malaria. 2 milioni. E 500 milioni di persone che vengono colpite dalla malaria, solo dalla malaria. E quindi, insomma, visto che poi la malaria viene portata soltanto a giro alle zanzare, insomma, la gente si fa anche due pensieri. No, no, certo. E il che ti succede, che non ti succede? C'è questo tizio che quest'estate è uscita questa notizia che ho letto, questo Andrea Crisanti, un tizio romano che lavora all'università Imperial College di London. Buono. Che ti va a inventare una modificazione del DNA delle zanzare, per cui vi leggo brevemente quello che ho scoperto. Che ne dici? Sì. Dai, sì. Brevemente ve l'ho scoperto, almeno cioè chi ha scoperto questo Crisanti. Alla fine non rimase nessuno. Che sollievo avrebbe da pensare se bastasse una manciata di generazione per cancellare la pianeta delle zanzare. Questo è un articolo di Repubblica. Ha fatto Andrea Crisanti, romano di origine, oggi professore di parassitologia molecolare nell'Ateneo londinese, ha inserito una zanzara femmina, un gene che blocca la fertilità, insieme al collega Tony Nolan. Mentre normalmente un frammento del DNA ha il 50% di probabilità di trasmettersi alla generazione successiva, esiste un trucco nel laboratorio di oggi che fa balzare la percentuale al 99%. Quindi il collasso della popolazione di insetti nella gabbia che aveva usato questo Crisanti nel giro di 7-11 generazioni, quindi in realtà poche praticamente un mese, è stato irreversibile. Cioè lui è riuscito a non far riprodurre più le zanzare modificando praticamente il DNA delle femmine e togliendogli quelle caratteristiche che si diceva prima di essere... pungente e succhiante, quindi la zanzara femmina non riesce praticamente più a sviluppare nel suo fase embrionale il suo apparato buccale e quindi non riesce più a figliare. E questa cosa qui adesso verrà sperimentata anche in popolazioni di zanzare più allargate, verrà simulato poi anche l'ambiente africano e il tentativo sarà quello di avere poi la possibilità di sterminare le zanzare. Ora, poi io mi sono fatto mille domande su questa cosa. Prego, Haro. Ma sarà vero questa cosa? Allora, il tizio dice di sì, gli ha funzionato sul suo piccolo esperimento, però a livello macro non si sa se funziona, perché le zanzare possono anche... Cioè, può succedere un po' di tutto, in realtà, secondo me. La natura è un po' incontrollabile su questo. Certo, è andare a fruzzicare sul DNA delle bestie, anche Jurassic Park ci ha... insegnato, esatto, che non è il caso, esatto. Forse, vero? Sì, vero, proprio Jurassic Park. Certo, gran insegnamenti da Papa Spielberg. Esatto. Io ho detto questo, la buona notizia, le zanzare portano la malaria, portano le malattie bruttissime delle persone che sicuramente non se le meritano, però Calderoli, il nostro amico Calderoli, quest'estate ha rischiato pesantemente la buccia per la puntura di una zanzara che gli ha trasmesso l'encefalite, non mi ricordo che cosa, e per cui è andato molto, molto, molto, molto, sembra, vicino a schiantare. Vedi che non tutte le zanzare vengono per nuocere. Esatto, questo voleva essere la chiusura della rubrica. E con questo io vi saluto, ci sentiamo sicuramente nei prossimi con altre bestiacce da tutto il mondo e adesso ci ascoltiamo una canzone, forse. Sì, sì, dai. Tema, il tema animali forse? No, beh, solo il nome, like Gazebo pare. Penguins. Evviva. Bravi. Persone Torniamo. Ciao. Torniamo più caldi che mai. Caldissimi. Caldissimi, proprio caldissimi. Veramente poi i nervi a fior di pelle. Non vi diciamo il perché, non ne vale la pena. Ma vi diciamo sicuramente che torniamo ad argomenti, purtroppo, che fanno male. Fanno male perché proprio mercoledì c'è stata l'udienza che ha condannato gli antifascisti per i fatti delle piagge avvenuti nel dicembre del 2014. Esatto. Fatti che scaturiscono da una, in verità, da una da degli avvenimenti di Roma, che vennero appunto a Roma sempre nella fine del novembre 2014, quando vi fu una, ma si può dire una in particolare, ma più aggressione da parte dei fasci a uno stabile dove vivevano dei migranti a Tor Vergata, Roma per l'appunto. Tutto questo comportò una serie di mobilitazioni anche nel territorio fiorentino, in particolare alle piagge, dove gli antifascisti fiorentini si opposero al comizio che doveva esserci di Forza Nuova. Per questo vi sono stati dei tafferugli, vi sono state delle denunce e appunto vi è stata l'udienza mercoledì. Abbiamo un compagno al telefono, anzi lo chiamiamo, se non mi sbaglio. Conosci nuovi potenti mezzi tecnici? Nuovi potenti mezzi da qualche settimana, sì. Ma è buono. Cioè. Un compagno della rete di Firenze antifascista. Pronto? Sì, pronto, buonasera, sei su Radio Wombat, a Fuoco alle Folveri. Ciao. Non l'ho detto io. No, ciao, non l'hai detto te, no, siamo in diversi, siamo in regia, siamo quindi due. Ti stiamo ascoltando. Okay. Ciao, buonasera. Allora, stavamo raccontando brevemente quello che è successo ormai 4 anni fa. All'epoca del presidio alle piagge, era la conseguenza di un'aggressione fascista a Tor Vergata. Forse ci puoi spiegare con maggior esattezza. Tor Sapienza. Praticamente, diciamo, parto rapidamente, certo, riepilogando i fatti di Tor Sapienza per poi arrivare alle piagge. Quello che successe in quei giorni a Tor Sapienza fu un vero e proprio salto di qualità da parte della destra militante, da parte dei fascisti, perché comunque ci fu un vero e proprio assalto a un centro di accoglienza per migranti, e fu la prima volta che ci si trovava di fronte a una situazione del genere, una situazione che poi è stata anche emulata in altre parti d'Italia, magari con minor veemenza, però comunque ci sono stati tentativi anche riusciti, andati a buon fine. Quindi quando Forza Nuova cercò in un quartiere come Le Piagge, un quartiere che già presenta al proprio interno forti contraddizioni, di portare quelle parole d'ordine, quegli slogan, quel prima gli italiani, che nasce dalla destra militante, dai gruppuscoli fascisti, e che poi è stato fatto proprio anche dalla destra istituzionale, vedi Salvini e anche altri soggetti. Sì, ma non solo dalla destra istituzionale, mi permetto di aggiungere. No, non solo, sicuramente non solo dalla destra istituzionale, perché poi la proposta di governo che ha formulato la Lega insieme al Movimento 5 Stelle, che nasce da questo prima gli italiani, è stata fondamentalmente spinta anche da quella finta sinistra che è rappresentata anche dal Partito Democratico. È evidente che le politiche, che il decreto sicurezza di Salvini è perfettamente in continuità con il decreto Minniti Orlando sul decoro, per esempio. Penso sia questo quello che tu volevi dire. Sì, assolutamente, è che è veramente difficile fare un distinguo, però si può dire con certezza che quella affermazione, quello slogan arriva da una destra estrema, da una destra che poi l'ha anche riproposta a Firenze per pochi giorni dopo la questione di Tor Sapienza. Sì, infatti, tornando appunto alle piagge, questo tentativo. Ci senti? Pronto? È caduta la È caduta la linea, linea. lo richiamiamo. Bello. Doveva ancora succedere questo, è bello. Comunque quando cade la linea è bello, Il bello della beh, vuol diretta. dire che funziona almeno, Vuol no? dire che Cioè, comunque qualcosa che funziona funziona, ma c'è. non funziona alla Comunque, perfezione. Secondo me è ci la piace. chiave del futuro. Perché se tutto funziona alla perfezione, secondo me siamo spacciati, ragazzi. Davvero, Rispondo Dio. telefonica. È rotto, per sempre. Ah, Secondo secondo me me gli ti si è spacchi scaricato il il telefono. È scherichello. È scherichello. Vabbè, Comunque, no, tenteremo. è una Magari cosa. ci richiama lui. Magari ci richiama lui, può darsi. Avete sentito cioè, come si sentiva bene, però, cioè, questa è una cosa che va Cazzo. detta. Grandi passi avanti, sì. Grandissimi passi avanti, se possiamo. Comunque, io direi che aspettiamo e vediamo se riusciamo a riprendere un collegamento più tardi. Più tardi. E se non ci dovessimo riuscire, cercheremo di fare, magari o la registreremo, la riproporremo la prossima puntata, oppure ce lo portiamo direttamente qua, così Ne non parliamo c'è meglio, questione non di c'è questo telefono. problema. E nel frattempo dobbiamo andare avanti, caro amico mio. Nel frattempo Oppure andiamo avanti. se vuoi condurre te le danze su questa faccenda, Beh, però. ora su questa faccenda io vi posso leggere il comunicato che è uscito da Firenze Bravo, bravo. antifascista. Ottimo. Però è lunghetto, è all'incirca quello che ci stava raccontando il compagno in collegamento. Spoiler, quindi. Quindi forse è un po' uno spoiler, sì. Dai, comunque io direi di. O mandiamo una canzone e richiamiamo. No, leggi. Dai, Proviamo a richiamare. si prova a richiamare subito al volo. Se non Magari va, in galleria, tipo. andiamo avanti. Bella anche la galleria. Bello anche che nelle gallerie non funzionano i telefoni, secondo Ti salva un po', Ti puoi no? sempre Sì, tipo rifugiare in adesso in galleria. treno funziona. Ma questo è un problema. Cazzo, cioè, in acqua funziona, ragazzi. Ma voi vi rendete conto di quanto è In grave acqua? la situazione? Sì, c'è il telefono, c'è waterproof. Segreterie telefoniche. No, Andà. niente, via. Allora, niente, questo è quanto. Se riusciremo a riparlarci in seguito, sicuramente lo passeremo. Intanto, il nostro regista ci salva il culo mandandoci un pezzo nel frattempo che noi ci riorganizziamo. Wombat. Sempre. Ok, lo abbiamo... Interruzione perché abbiamo una telefonata che dobbiamo finire. Pronto, eccoci. È caduta la linea, ti si è spento il telefono probabilmente. Non lo so, ora se è il vostro... Ah, ok, potrebbe essere anche nostro. Sapere a che punto siete rimasti. Allora, stiamo parlando delle piagge, del concentramento alle piagge. Se, a che punto ora, non so più o meno a che punto è caduta la linea, quindi il concentramento c'è stato, ho già parlato delle cariche, dello spostamento no, dei fascisti. Assolutamente, ci avevi spiegato il fatto di Tor Sapienza, un po' lo slogan delle destre che è diventato un po' lo slogan di governo, e infine stavamo arrivando ai fatti delle piagge del 6 dicembre. Ok, quindi Forza Nuova convoca un presidio, le cui parole d'ordine sono le piagge come Tor Sapienza. Quindi ci sembrò ovviamente importante lanciare subito una mobilitazione che portò in piazza diverse centinaia di persone. Molti soggetti raccolsero l'appello di Firenze antifascista, tra cui il Movimento Lotta per la Casa, l'AMPI, la comunità, il Pozzo di Don Santoro e altri soggetti legati a una tradizione più socialdemocratica. Questo anche per, per far capire quanto fosse quel salto di qualità fatto dai fascisti fosse evidente, fosse pericoloso. Quindi c'era questo 4 anni fa. E i fascisti poi furono spostati, non furono fatti stare alle piagge, furono mandati in una piazza a Peretola, blindati dalla polizia, perché ovviamente non è una questione di abitudine, è una questione che devono essere protetti, poiché hanno un ruolo in questo sistema. In questa particolare fase storica il loro ruolo è questo, e si esprime così dai gruppuscoli fascisti che portano schermaglie nelle periferie alla Lega che sta al governo. Questo è il loro ruolo storico in questo momento. Quindi appena saputo dello spostamento del presidio di Forza Nuova, voi immagino avete provato a spostarvi? Sì, abbiamo provato a spostarci verso i fascisti. Siamo stati caricati 3 volte dalle forze dell'ordine a seguito di questi eventi. Sono stati denunciati 11 compagni, per 3 di loro è stato applicato l'obbligo di firma come misura cautelare, per gli altri denuncia a piede libero. È bene ricordare che Questura e Pubblico Ministero avevano richiesto la custodia cautelare in carcere per 3 compagni che poi hanno avuto l'obbligo di firma, e gli arresti domiciliari per tutti gli altri coinvolti nel processo, cosa che poi fortunatamente non è stata accordata. Poi ovviamente in seguito a varie tappe siamo arrivati fino alle richieste di condanna lo scorso maggio. Le richieste di condanna andavano da un minimo di 1 anno e 6 mesi a un massimo di 2 anni. Sempre per 11 persone, questo? Sì, sempre per 11 persone, sì. E mercoledì scorso c'è stata l'udienza che ha confermato le condanne, seppur dimezzandole, giusto? Sì, praticamente portandole tutte a 1 anno, tranne che per un compagno che è stato condannato ad 11 mesi, e ci sono state, bene ricordarlo, 2 assoluzioni. Quindi comunque si sta parlando di quasi 10 anni di carcere per essersi opposti in quel giorno a Forza Nuova, con quelle parole d'ordine in quel periodo, in quel momento appunto in cui i fascisti stavano facendo questo questo salto di qualità in un momento in cui quello slogan, che poi è diventato una proposta di governo, prendeva forma e si muoveva dai salotti borghesi verso le strade. Assolutamente, era un momento fondamentale dove far vedere la presenza antifascista sul territorio, e questa cosa l'hanno capita probabilmente anche le forze dell'ordine e via discorrendo. Quindi sicuramente le condanne pesano, o la solidarietà però è stata tanta, c'erano molte persone sotto al tribunale mercoledì, avete naturalmente anche la solidarietà da parte di tutti noi. Tutto questo in che prospettiva vi mette nel prossimo futuro? E nel prossimo futuro ci mette nella prospettiva di lavorare per sicuramente rilanciare la solidarietà ai compagni denunciati, non solo per i fatti delle piagge, ma ai compagni denunciati per antifascismo. E vorrei anche cogliere l'occasione per mandare la nostra solidarietà come Firenze antifascista ai compagni anarchici, che in questo momento sono ancora in carcere, accusati di aver messo un ordigno alla libreria Il Bargello. Sì, nel dicembre 2017, se non mi sbaglio, nel gennaio 2017, il primo gennaio 2017. Sì, esatto, quindi ci tenevo particolarmente a rilanciare la solidarietà a questi compagni, e anche perché insomma abbiamo visto che anche in questo processo Casa Pound si è costituita, sia la libreria Il Bargello che Casa Pound sono costituiti come parte civile offesa, anche da parte loro è un salto di qualità verso la legittimazione, certo, anche all'interno nei tribunali della società, ecco. Bene, quindi non so, hai altre cose da ricordare, da dire in particolare? Sì, infatti stavo finendo rapidamente, avevo avuto un attimo questa digressione su questi compagni. Sicuramente come Firenze antifascista riteniamo sia importante rilanciare la mobilitazione antifascista e soprattutto anche contro all'attuale governo. Noi lo chiamiamo il governo giallo, come molti di questo governo giallo-verde, era giusto per capirsi, che lo riteniamo assolutamente, come dicevi tu prima, in continuità con le politiche dei governi precedenti. E come Firenze antifascista vorremmo rilanciare un'iniziativa che ci sarà appunto giovedì 1 novembre al circolo La Colonna di Sesto Fiorentino, dove appunto parleremo dei processi di Firenze antifascista, più in generale una mappatura faremo delle realtà fasciste a Firenze. Bene. E andremo appunto a lavorare in quel senso là, in modo capillare, per opporsi a tutto questo. In modo capillare sarà una prima iniziativa, però invitiamo a prestare sempre attenzione a quello che succederà in città, perché pensiamo che in questo momento opporsi a questo governo sia veramente veramente importante, veramente fondamentale. Noi rinnoviamo la nostra solidarietà, ricordiamo che Firenze antifascista si può contattare, avete una pagina Facebook? Sì, esatto, Firenze antifascista, per l'appunto. Diretto. Avete anche un sito? Avete anche un sito web? Sito web no, non c'è. Benissimo. Non c'è. Va bene, detto questo, ti ringraziamo. Va bene, io ringrazio voi e vi auguro buon proseguo della trasmissione. Altrettanto, grazie. Altrettanto. Ciao. Ciao. Ciao. Eccoci, torniamo in regia. Abbiamo sentito il compagno di Firenze antifascista. Sì. Brutta faccenda. Abbastanza brutta, sì, direi di sì. Spunto di riflessione per tutti, riportando poi al presente, da un fatto avvenuto 4 anni fa. Tornando al presente, tutte queste cose in verità si moltiplicano, sì, tutti anzi, questi accadimenti. Cioè, sembra che l'opposizione 4 anni fa anche strenua opposizione a determinate manifestazioni che ci sono state. Insomma, adesso sono quasi tutto, è quasi tutto più sdoganato, quasi anche l'antifascismo, benissimo questo, un'azione 4 anni fa è diversa da un'azione oggi, 4 anni fa questa azione era... È stato fatto un salto di qualità, tempi, come, ecco, come diceva il compagno al telefono, veramente è stato fatto un salto di qualità e va fatto rifare in basso. Beh sì, sicuramente si sentono più sicuri e non si vergognano più di dire la propria idea, di manifestare la propria idea così. Si sentono legittimati, così come legittimato è il nostro compagno Tuco a parlare di Balcani, perché voi, appunto, noi stavamo per partire le nostre storie sulla Balcani balcanosi e balconi balcanosi, ma poi abbiamo avuto la telefonata. Siamo riusciti a chiudere questa telefonata, a fare questa telefonata, siamo stati bravissimi. Tuco. E quindi? E quindi sagla, quindi? Ragazzi, non vi dico niente finché non sento la sagla. Yuri! Oh! Cazzo! Dai che comincia! E eccoci. Kalashnikov! Allora. Benvenuti a tutti e a tutte. Anche a te. Ciao. Sono sicuro che saranno rimasti con noi fin dall'inizio e avranno sentito anche questa ultima chiamata al compagno per la questione delle piagge. Quindi ribadiamo la nostra solidarietà ai compagni che stanno subendo la repressione dello Stato e andiamo a parlare invece dei miei amati Balcani. Allora, gli argomenti sono due, tutte e due abbastanza veloci. Il primo è un aggiornamento sulla Macedonia, che ultimamente vi sto tenendo sempre aggiornati. Vi ricordate il referendum che c'è stato poco tempo fa? Andò fallito perché non ha raggiunto il quorum del 50%, ma non ha raggiunto, se non sbaglio, era il 33%, quindi è fallito totalmente. Quindi il governo macedone, in tutto ciò, che era promotore di questo referendum, ha trovato i voti in Parlamento per portare avanti il cambio del nome della Macedonia e quindi poi tutte le conseguenze legate a questo cambiamento. Quindi niente, il governo decide di cedere al ricatto europeo, al ricatto greco, oppure è una cosa importante che porterà il paese a un miglioramento? Chi lo sa? Chi lo sa? lasceremo, diciamo che il popolo in realtà con questa astensione, come al solito, non si dà ascolto a chi non vota, cioè il non voto in realtà è un voto in sé. Come sempre, quindi questo non voto non viene ascoltato dai governanti perché era proprio non cedere a questo ricatto e invece al ricatto si sta cedendo. Comunque, le valutazioni del caso le lasciamo al futuro, vi terrò aggiornati sulla Macedonia. Hai qualcosa da aggiungere? Assolutamente no. Benissimo. Allora, passiamo invece al fulcro della puntata di oggi. Io vi voglio raccontare, più che altro consigliare, di seguire un reportage. Anzi, consigliare di seguire e aiutare affinché possa continuare. Questo reportage si chiama The Game. È un reportage che si pone l'obiettivo di accendere i riflettori sulla frontiera bosniaco-croata. The Game praticamente è il nome che viene dato ai migranti, dai migranti, al tentativo di attraversare le frontiere. Ok, quindi è chiaramente un The Game simbolico, certo non è un gioco, anzi è proprio per dire l'opposto. E questi giocatori in fuga, come vengono chiamati all'interno di questo reportage, niente, subiscono di tutto la frontiera, come in tutte le frontiere chiaramente, che stanno in generale, in particolare quelle che vedono l'attraversamento di questa fase epocale migratoria. I Balcani è una delle strade principali che sono state sui nostri giornali per lungo tempo e in particolar modo poi dopo con la costruzione dei muri voluti nella varie Bulgaria, in parte Croazia, e poi è scomparso tendenzialmente dai giornali, cioè tutta la tratta balcanica, e invece è viva, è tuttora. Immaginiamo, anche se poi stanno trovando i migranti nuove strade o a seconda del tempo attraversano meno il mare, eccetera, comunque è una strada ancora molto attiva e i giocatori, appunto, tra virgolette, di questa tratta continuano a essere picchiati, derubati, scacciati, questo reportage riporta via via tutte le voci e gli avvenimenti che ci sono, che avvengono appunto sulla frontiera bosniaco-croata. Questo reportage è sostenuto appunto dall'Osservatorio Balcani e Caucaso, che è quello che mi dà le notizie principali, grandi notizie, sì. Le grandi notizie, e è portato avanti dal collettivo Checkmate. Checkmate è un collettivo fondamentalmente, sono riuscito a capire, che è composto da degli studiosi italiani di varia provenienza, quindi c'è un laureato in DAMS a Bologna, c'è Luca laureato nella scuola Holden di Torino, e l'altro è Paolo, ex operatore di raccoglienza laureato in Global Refugee Studies. Questi sono i tre protagonisti, sembrerebbe, del collettivo Checkmate, che hanno aperto un crowdfunding apposta per continuare a fare questo reportage, che viene riportato a sua volta dall'Osservatorio Balcani Caucaso. Ancora non hanno raggiunto la cifra, sono a circa metà. E niente, però io ho cominciato a seguire le prime puntate, è molto molto molto interessante, devo dire, e anche tremendo, chiaramente nei suoi racconti. Vi racconto, vi leggo velocemente uno dei pezzettini, uno degli estratti, che arriva dal 22 ottobre, ieri l'altro praticamente, okay. Dove centinaia di migranti si sono incamminati insieme verso il confine tra Bosnia e Croazia. Questa è la terza puntata del reportage di The Game sul portale Balcani Caucaso, e ha colto la mia attenzione, perché poi queste manifestazioni di in cammino già le stiamo vedendo, insomma, saprete benissimo del Sud America, dall'Honduras, tutta la veramente la grande, certo. Grande fiume di persone che stanno attraversando, che ora stanno attraversando il Messico per andare negli Stati Uniti. Trump ha detto assolutamente no, non scherziamo assolutamente, e toglieremo tutti i finanziamenti a tutti quei paesi che li aiutano, e quindi lì c'è in tutta il Sud America che si vede contro questa minaccia. Insomma, quella è tutta un'altra storia, non sto a raccontarvela, però è una notizia che gira, e mentre non è girato molto invece quest'altra manifestazione dei migranti invece del 22 ottobre di quest'anno. Allora vi leggo l'estratto. Grazie. Prego. Stanno correndo alla frontiera, si stanno spostando tutti al confine. Veniamo informati presto al mattino dalla manifestazione in corso alla frontiera di Velika Kladuscia. Ci siamo vestiti in fretta e siamo usciti di corsa. È il momento di andare, forza. Lo dicevano l'un l'altro per farsi coraggio le persone che oggi hanno deciso di lottare contro un'insopportabile oppressione. Hanno messo lo zaino in spalla e si sono incamminate verso la frontiera, sperando che questo potesse essere la volta buona. Abbiamo camminato insieme per 3 chilometri, eravamo all'incirca 300. Abbiamo camminato col pensiero rivolto a quello che sarebbe successo. Tutti si chiedevano quale sarebbe stata oggi la reazione delle forze dell'ordine. Il loro dispiegamento è stato immediato, con l'unico obiettivo di arginare quel fiume in piena. Alcune pattuglie si sono appostate nei punti nevralgici della città. Uomini in uniforme, poliziotti in tenuta antisommossa, un drone e un elicottero sono stati prontamente chiamati all'azione per controllare ogni centimetro del flusso. Apriranno la frontiera questa volta? Cosa farà la polizia croata? Queste le domande che ci circondavano. Abbiamo continuato a camminare, incerti dell'esito di quell'andare. A un certo punto ci siamo arrestati, bloccati di fronte a un cordone impenetrabile di polizia. Vedevamo la frontiera alle loro spalle. Lì, insieme ad un passo dalla rinascita. Lì, insieme ad un passo dalla terra dei diritti. Così viene vista da qua giù l'Europa. Lì, insieme ad un passo dalla porta d'uscita da questa prigionia. Alcune persone si sono sedute o sdraiate a terra. C'è chi ha invece iniziato a camminare su e giù per quel filo di cemento, con i muscoli stanchi di aspettare. È iniziata una rivolta silenziosa, affaticata, perché le energie si stanno esaurendo. Il freddo ha atrofizzato i corpi e indebolito le menti. Cosa possiamo fare? Ci ascolterà qualcuno? Ci chiede Ahmad. Momenti di silenzio imponente. Lo sguardo cade a terra. Si deve pensare velocemente per non lasciare che quelle domande rimangano appese. Spesso però il silenzio si impadronisce di tutti i pensieri. Noi siamo ciò che incontriamo, prosegue Ahmad, scacciando l'imbarazzo. Se rimaniamo per troppo tempo a contatto con la violenza, non ci trasformeremo in altro che in essa. Se viviamo per troppo tempo a contatto con il dolore, non diventeremo altro che anime lacerate. Se viviamo per troppo tempo a contatto con l'esclusione e la marginazione, perderemo fiducia in noi stessi, smarrimeremo la nostra identità e ci convinceremo di essere uomini privi di valore, meritevoli di essere trattati come tali. Oggi, 22 ottobre 2018, uomini e donne e bambini hanno chiesto di essere rispettati come esseri umani. Si sono uniti, si sono fatti vedere e sentire come un'unica risposta per continuare a resistere. R tra parentesi, quindi esistere. Così, appesantiti dalle botte, dalla rabbia, dalla frustrazione e umiliazioni quotidiane di essere ridotti a vivere un'intera vita nell'indifferenza del mondo. Oggi, 22 ottobre 2018, fa freddo a Velika Kalusha. Le temperature si stanno muovendo verso l'inverno. Ore di attesa. Anche oggi, come allora, centinaia di persone hanno provato a oltrepassare il confine, anni di attesa. Oggi, come allora, sembra che non sia cambiato nulla. Quell'unico corpo si è slegato di nuovo, le persone si sono alzate da terra, si sono girate e hanno lentamente percorso la strada del ritorno verso le tendopoli che si separava, che si sperava di aver lasciato per sempre alle spalle. Perché le istituzioni non intervengono? Per favore, aiutateci, per favore. Ce lo dice Samina, donna di 72 anni che stava viaggiando insieme ad Abdullah, suo nipote. Voi siete l'estensione della mia voce, aggiunge. Chiedo rispetto e ascolto. Le persone bloccate alla frontiera chiedono di poter vivere dignitosamente senza che i loro diritti vengano bastonati ogni giorno. Vorrei una vita serena, vorrei poter vivere in pace. Desidero che mio nipote possa un giorno studiare e diventare il suo sogno. Io la mia vita l'ho ormai vissuta. Probabilmente, pensiamo noi con amarezza, la manifestazione di oggi non si è minimamente percepita in Europa. Terra troppo grande perché venga nascosta da centinaia di piedi in movimento. Terra però troppo vicina per accettare che nessuno abbia sentito le tante voci che, oggi, si sono unite in un'unica preghiera per l'apertura di un varco, per il rilascio di un lasciapassare. Loro sono ancora qui, voci afone di fronte all'assurdità del mondo. Questo era uno degli estratti da questo reportage, ci sono tanti altri che raccontano tendenzialmente dei pestaggi giornalieri, del ricorrente è la rottura dei cellulari, cioè molto spesso, no, noi ne abbiamo parlato anche qui a Fuoco alle Polveri, molto spesso il cellulare è l'unico modo per mettersi in contatto con chi è ancora a casa, c'è tutto, ci sono i numeri, è l'unica cosa che è davvero importante che ti porti dietro. Ecco, i poliziotti croati sistematicamente spaccano i cellulari a tutti e li rimandano indietro. Io l'ho letto un po' tutte queste storie, sono abbastanza atroci, sono anche storie di pestaggi, insomma, di bambini. Roba veramente pesante. Però vi consiglio, se vi interessa, di andare a studiare queste voci afone scordate dai media e dalla sordità del mondo. Quindi ribadisco, balcanicaucaso.org è il portale che riporterà ogni settimana un pezzo di questo reportage. Se volete contribuire a questa crowdfunding di The Game, andate a cercare nel collettivo Checkmate. Buono. Niente, per oggi è tutto, anzi direi che è sufficiente, è abbastanza pesante, quindi vi lascio con una nota di leggerezza. Allora, il pezzo si intitola No Border, apposta. Chiaramente però ho scelto di non sentire una voce di migranti balcanici o comunque delle terre balcaniche, ma anzi ho scelto un gruppo misto tendenzialmente di Bangladesh, quindi artisti derivanti dal Bangladesh, e questo pezzo si canta in inglese, in Urdu e in un'altra lingua. Ho provato a cercare la traduzione, non sono riuscito a capire benissimo, chiaramente. Quindi se c'è qualche ascoltatore bengalese che sa cosa dice, scriva a postawomba@siberia.org se ho scelto il pezzo giusto, spero di non offendere nessuno, però il pezzo regge, quindi vi lancio No Border. Here we go. rap con fade rap mande e todo rap o warzone yeah. Contro Dario è una Dario stupenda. Torniamo naturalmente con la nostra oramai classica, puntuale rubrica sulle gesta del nostro prode Dario. Sindaco Dario Nardella. E wow, andiamo a ripescare un po' in una di quelle gesta che è diventata epica, direi famosissima, risale a quest'estate, e naturalmente l'ordinanza anti-Panino. Ne abbiamo già parlato, ma ne abbiamo parlato non abbastanza, soprattutto non con le persone che... Con una persona, diciamo così. Con uno dei... Con uno dei... delle persone che questa cosa non gli è proprio andata giù. Stiamo parlando di Ex Voto Fascis, l'autore della Madonna col Panino. La Madonna col Panino è un volantino, un'opera, che è stata stampata su un foglio bello grosso ed è stata attaccata in ben due punti della città di Firenze, in Via De Neri, proprio per l'ordinanza antipanino, e anche, se non mi sbaglio, in Sant'Ambrogio. Ce l'abbiamo al telefono, lo chiamiamo. Lo chiamiamo in diretta. Tutu. Attendiamo. Eccolo. Cioè, eccolo, aspetta. Pronto, buonasera Ex Voto Fascis, l'ho detto bene? Buonasera. Benvenuto al microfono di Radio Wombat, siamo nella regia in un programma di Fuoco alle Polveri, siamo in diversi, potrai sentire diverse voci. Ciao a tutti, speriamo di riuscire a fare una cosa decente, perché io sto in macchina parcheggiato e quindi non so di cosa avete parlato, non vi conosco, allora, non so chi siete, esatto. Però ho dato un'occhiata. Però abbiamo delle idee in comune. Abbiamo delle idee in comune, perché anche a noi alcune cose di Nardella non ci tornano per niente, e naturalmente è stato un po' all'ordine del giorno l'ordinanza anti-bivacco a Firenze, così come anche in altre città, però noi naturalmente viviamo quella fiorentina e abbiamo visto anche la tua risposta a questa ordinanza anti-bivacco. Beh sì, come dire, ci stava tutta, infatti a quanto pare l'avete anche apprezzata e quindi ne sono piuttosto felice, e questo è anche uno dei motivi per cui rispondo a queste interviste, perché a me in genere, come dire, sto sempre sotto traccia, perché se si vuole agire disturbando l'idea del buon pensiero pubblico, ecco, sempre meglio starsene sotto traccia e non farsi vedere né sentire troppo. Però veramente l'abbiamo apprezzato, è un po' un questo qua è un po' ironizzare su un dramma che colpisce tutti noi. Immagino i motivi che ti hanno spinto a fare questa cosa, ma spiegaceli. Allora, guardi, i motivi principalmente sono gli stessi che mi portano a operare a Roma, perché come vi dicevo all'inizio, io non sono di Firenze, anche se buona parte del mio sangue è toscano, ma proviene da Lucca, quindi non saremmo comunque amici, come nel, invece, no? nella realtà. Quindi è il mio modo di agire che appunto ho sviluppato qui a Roma da un po' di anni a questa parte, poiché ero a Firenze tempo fa, sono stato invitato a una piccola collettiva organizzata da Terra Guasta, una piccola esposizione c'è stata in una libreria, l'Onda Blu, visto che stavo lì sono passato per Firenze, volevo già portare allora una Madonnella delle mie, però visto che il caso caldo era questo ho pensato che fosse opportuno farne una doc, quindi vi è apparsa una delle mie Madonnelle lì in Firenze. Ecco, avrei anche notato che è stato immediatamente strappato dai vigili, che però sono stati immortalati nell'atto, e quindi tutto questo poi ha fatto sì che finisse realmente sulle pagine dei giornali, almeno fiorentini. Beh, certo, c'è stato tutto quanto l'evoluzione, quindi come è stata notata sia l'apparizione che la sparizione, ma questa è una cosa che avviene anche qui a Roma, non è una cosa che avviene soltanto a Firenze, tu quasi tutti i miei lavori qua in città sono partiti belli da un po', quindi anche perché lavorando in carta e così con la colla che non siano troppo aggressive nei confronti dei muri, ecco, le rimozioni sono all'ordine del giorno, sia che vengono fatte da forze costituite che non da passanti, quindi però appunto l'importante è che si sia notata, magari abbia realmente riaperto il punto in questione, che tra l'altro, come dire, è un piccolo punto che ne cela uno un po' più grande, che è quello del perdere proprio delle libertà personali. Questo ormai è lo sport di molte amministrazioni che in nome di un perbenismo, una così ipotizzata democrazia, ci stanno iniziando a togliere tutte le nostre libertà, perché appunto c'è, cioè, o la sicurezza o il decoro che impongono, no? Che sono imposte e che bisogna stare, no? A seguire come se fossero le divinità estreme, quindi è un, come dire, è un qualcosa che andrebbe fatto molto più spesso. Assolutamente, si sta parlando della negazione di un diritto, così come viene chiamato anche da diritto alla città, e questo colpisce tanto Firenze quanto Roma, sicuramente magari in modo diverso, vista la densità e l'estensione, e anche probabilmente il fatto che più o meno cosmopolita, più o meno tante... Ma guarda, se posso, io su questo ho un pensiero, perché, come dire, purtroppo lavorando in strada e facendo con questo tipo di azioni sto molto a contatto con la realtà, molto di più di quello che in cui non starei nella mia propria parte civile, perché è proprio sui temi cittadini, questi che sembrano piccoli, che in realtà si combattono oggi le grandi battaglie civili, sembra assurdo, ma poi alla fine appunto anche un panino può diventare un emblema appunto di una libertà negata in base a un pensiero strano, e tra l'altro un pensiero strano che come dire non c'è soltanto a Firenze, ma c'è ovviamente anche a Roma, come in tante altre città, ma in quelle cosiddette città d'arte italiane sta diventando un problema serissimo. Firenze è la prima città Venezia è la prima città che insieme a Firenze e Roma dove questi danni sono veramente evidenti, perché tutta l'economia e tutto il bel salotto città, anzi proprio la città viene piegata alle necessità di questo tipo di turismo, che paradossalmente appunto meno vede sporcizia meglio sta, quindi c'è tutto un discorso molto più ampio che andrebbe fatto, però possiamo rimanere tranquillamente a parlare del panino, sì, come piccolo emblema di libertà negata, perché appunto c'è una città che viene piegata a un'altra necessità, che non è quella del riunire il vivere e le genti, no? Ma vendere. Diventare vetrina, no? Vetrina di un qualcosa di intoccabile, quindi tutto un po' una polemica che si muove intorno al, al concetto di decoro urbano anche, quindi... È ecco, proprio quello il diciamo concetto che stanno cercando di farci entrare, di imporre. Certo, ci stanno imponendo un decoro urbano che non è, come dire, un vero decoro, ma è un decoro imposto da una necessità economica a cui la città si è completamente piegata, appunto al turismo stiamo parlando, sto cercando, questo è il punto, no? Il punto è proprio quello di come una città si rapporta con i suoi beni e come li può sfruttare nel senso migliore della parola, buono, certo. Mentre invece da noi in queste città, appunto Venezia, Roma, Firenze, ecco, certi beni, quindi la parte centrale storica della città viene considerata un bene più non a disposizione dei cittadini, ma un bene da donare appunto a sti turisti che ci invadono e ci semagnano. Venezia è appunto il caso più particolare, perché a Venezia non ci stanno più i veneziani, perché ormai, come dire, ecco, sono andati altrove. Tutti i prezzi sono proprio per loro, no? Per gli altri. Sì. E la città è la città che diventa, la città così muore, la città diventa museo impolverato, diventa un luogo dove neanche c'è, non solo più spazio appunto per le singole libertà, ma anche per nessun tipo di dibattito. Perché tutto deve essere, purtroppo è, no? Quello che viviamo è un parco giochi, così come anche esatto, te. Sì, io guarda, qui a Roma ho fatto tempo fa una sessione con un Welcome to Romeland con Minnie e Topolino al posto di Romolo e Remo che ciucciano la lupa, perché sì, cioè, ormai appunto la Disney worldizzazione di alcune città italiane ecco è piuttosto evidente, per cui stiamo diventando dei parchi a tema, ci stanno togliendo non soltanto no, non soltanto la città, ma anche la vita è un futuro professionale, perché qua fra un po' o se vendono panini o ci trasformiamo Pippo Pluto e Paperino e ci mettiamo fuori dai musei a farci fotografare come se vogliamo cercare un lavoro, quindi ecco, o le città si svegliano da quest'incubo del turismo di massa, che sia una risorsa ma non può essere l'unica risorsa principale di una città economica, quindi o ci risvegliamo oppure saremo, ecco, finiremo okay. Tutti così, quindi sicuramente le tue opere, sicuramente il panino è fondamentale, assolutamente, perché effettivamente ha avuto un effetto su Firenze che raramente l'abbiamo visto in seguito a iniziative cortei, pipponi e via discorrendo, invece una semplice immagine così rappresentativa ha avuto un effetto veramente notevole su tutti noi. E, detto questo, anche su di me devo dire. Speriamo di riaverti qua, magari, speriamo che magari... Sì, perché la mia serie di Romaland comprende anche Firenze Land e Venezia Land, quindi aspettatevi una mia riapparizione, non magari con una Madonna, ma con qualcosa cui a questo punto mi sta veramente più a cuore, perché vedere che le città perdano di senso, perlomeno del senso che una volta avevano, no? Un luogo appunto dove si svolge la vita in comune e diventa invece un luogo dove la vita è assolutamente privata da tutto, quindi sì, sicuramente ripasserò e vi lascerò qualche altra cartolina delle mie. Bene, le aspettiamo allora. Sì, certo. Nel frattempo grazie e buon proseguimento a Radio Wombat. Altrettanto. Ciao. Buono, abbiamo sentito. L'abbiamo sentito. Ex voto fascis, Madonna col panino, Romaland e tante altre. Ha una pagina Facebook, ex voto fascis, può essere consultata. La Nardellata forse è finita, ma forse anche no. Mi hanno segnalato al volo, vi dico, che il comune di Firenze, il consiglio comunale, Andrea Ceccarelli, bla bla bla, verrà bandito è stato messo un bando per le radio locali dal comune di Firenze per fare una sorta di radiocronaca del consiglio comunale, e quindi sarebbe una ardellata, sarebbe più immagine. sarebbe incredibile. Ma speriamo che qualcuno lo faccia. Quello è una banca di sì, ma lì lascia fare, cioè, lì chi lo fa, li fa la radio cronaca buona, li fa la radio cronaca seria, perfetta, tutta sì, rispettosa. Se volessero diventare il comune proiettato nel 2055, dovrebbero scegliere noi e pagarci. Ci avrebbero già scelti, probabilmente. Sì. Grande ritardo per noi. Grande ritardo? Sì, avremmo avuto un sacco di cose, di altre cose da mandare. E sì, vero. Io direi che se me si può fare. E la facciamo? Anche se sì, no. Che cazzo ce ne fotte, dai, noi, che ce fotte. Abbiamo iniziato più tardi, finiamo più tardi. Sì, ma tanto non è che... Ho sentito motori? Sì. Accendi, dai. Ho sentito pazzi motori? Motori. Accendili, accendili. Der Start. Beh. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Ciao amici! Ciao, io ero grandemente poco pronto. Perché non me l'aspettavo con questo ritardo di essere ancora sul pezzo. C'ero, ho seguito, che bella puntata è stata. Cerchiamo un attimino di sciuparla sul finale. Dai, dai, dai. Quante cose sono successe, che mondo pazzo e misterioso è questo qua della Formula 1. Avete visto tutto, non è vero? Per esempio, Raikkonen vincere in Texas nell'anniversario della conquista del suo titolo mondiale. Bellissimo, bello, momento, bello, bellissimo momento, grandissimo momento. Tra l'altro il pilota... da lontano 1992, quando Nigel Mansell vinse con la Williams alla veneranda età di 41 anni, che è un pilota sui 39 come Raikkonen, in prossime 40 non vinceva un gran premio. Grande festa, grande, grande gioia. Tra l'altro ricordiamo anche firmato un contratto con la Sauber per tutto l'anno, fino al 2020. Ma che cosa è successo a proposito del gran premio? Siamo tutto su quello. Raikkonen ha vinto e poi ha commentato, gli hanno detto com'è vincere, ha detto bello, meglio che arrivare secondo. Ha commentato così. E la Ferrari ha fatto un post che si è attirato tutte le critiche dei tifosi, perché ha fatto una specie di post muto dopo la vittoria del Gran Premio, ha messo quello smile dell'omino che fa shh, quello col dito davanti. E tutti gli hanno detto ma cosa, hai perso, gli mancano due punti a Hamilton, avete fatto un troiaio con la macchina più forte, ma cosa. Certo. E invece, infatti, grandi critiche, ma il momento più alto di tutto il Gran Premio ve lo faccio sentire. Dai. È stato questo. Mentre c'era in diretta la grande telecronaca mondiale, mamma mia, non funziona più niente qua. Esatto. Ve lo racconto dopo. Vabbè. Intanto vi racconto che hanno squalificato Magnussen e Ocon perché avevano ciucciato il carburante nel primo giro oltre la misura, cioè si può consumare 100 kg di carburante ogni ora. Beh, e assurda, loro... sì, sì, assurda, assurda. Regole che non sono meno incredibile, ma anche perché la Formula 1 in teoria dovrebbe essere, cioè, chi se va spingi più forte l'acceleratore troppo e usi la parte. Una delle cose che devono stare a cui devono badare i piloti è quella di non esagerare nel consumo carburante. Se danno troppo nelle fasi iniziali sui sorpassi, dopo devono contenere a discapito delle prestazioni. Ma anche perché possono fare benza. Non possono più fare benza. Non c'è più il bocchettone. Cambiano gomme e c'è questo. Sì, basta però. Benza no. Allora, io vi voglio fare sentire questo momento importante. Devo staccare... Posso staccare? Il sottofondo? Vada. Sì, ho staccato il sottofondo. Scusate. È sempre la cosa più bella della rubrica. Facciamo noi. Wow! Sai, vero? Boom! Boom! Non trovo il buco, Tuco. Boom! Allora, è successo questo. Mentre stava andando il Gran Premio... grazie. Live è molto più bello, tra l'altro. Mentre stava andando il Gran Premio... C'era un tizio che a un certo punto deve essere entrato nella sede della regia mondiale, qualcosa del genere è successo. Cioè c'è stato un grande momento. Bello. Il grande momento è stato questo. Un acherone. Però è arrivato e iniziava a fare gnau, gnau. Come facevi? Un deficiente completo, si è attaccato al microfono internazionale. Sì, come facevi te, bravo. Però l'ho fatto in diretta mondiale con milioni e milioni di telespettatori. Bellissimo. Bene, lo faccio sentire, dai un po' di volume, dai. Chissà. Non si sente. Come mai? Qua sta andando. Ci vuole il terzo regista adesso. Canta. Eccoci. No, non prende bene il jack. Non va. Il jack non prende bene. Ci metto il microfono. Alla vecchia. Togli sto jack però. Voilà. Siamo qui. Secondo me niente. Anche secondo me non si sente niente. È stata un flop. Amici, è stata veramente un flop questa puntata di Formula 1. Siamo gasati così tanto. Ma poi quante cose avevo da raccontarvi. Quante cose avevo da raccontarvi. Sta mollando solo perché non funziona l'audio. Sto mollando, sì. Stai mollando? Comunque c'è una cosa che si trova facilmente su internet, no? Questa CD Pro. Vai, vai, sì, è vero, un po' di pimp. No, io comunque vi voglio chiedere una cosa, perché l'altra volta avevo annunciato questa rubrica dedicata alla Russia. Alla Russia? Sì, sì. È successo qualcosa nel mio ascolto? Sono successe un sacco di cose in Russia, molto belle. Io sono molto pronto per le prossime volte. Ho da raccontarvene, per esempio, Coulthard che ritorna a far scintille. Scusami, la rubrica rimane Coulthard. Comunque sulla Formula 1. Sì, ma ci sono delle sottorubriche. Sì, va bene, va bene, okay. Ne vorrei inaugurare una, okay, che pensavo una cosa tipo Lenin a quattro tempi. Sì. Dalla Russia con furore, qualcosa bene, di... Bene, bene. Con rumore anche. Con rumore ci siamo già, infatti, ma non c'era niente di... Volevo qualcosa che avesse a che fare con la Russia e i motori, perché ho tante novità dalla grande madre Russia da raccontarvi. Vi dico già il finale. Sì. Arriva Putin e dice: basta, avete tutto, tutti il cazzo, la Russia si fa una squadra nazionale entro il 2020. Oh, boh. Boom, boom, boom. Colpo di scena, poi vi racconterò le vicende la prossima volta, vi faccio sentire anche il tizio dell'Ognao, che è un peccato, certo, veramente che non lo riusciamo a sentire adesso. Dai un po' di volume, ci riproviamo l'ultima volta, dai. No, contava solo l'intenzione. Ciao amici, lunga vita Radio Wombat, alla prossima. Detto questo, noi ci salutiamo, direi. Ci salutiamo e ci sentiamo lunedì prossimo. Vero, ricordiamo ancora una volta il nostro indirizzo posta. Vai, bello. Dai, postawombat@insiberia.net. Sì, e... ricordiamo appuntamenti. Vai, appuntamenti, no, possiamo ricordare Coccoli al Sliscio alle 21.30. Bravo. Naturalmente non perdetevi tutto il resto della programmazione Wombat, che è fantastica. Sì. E tenete anche dritte le orecchie, perché presto ci saranno eventi assolutamente imperdibili. Verissimo. Eventi Wombat, eventi Wombat imperdibili. Vi daremo aggiornamenti. Ciao a tutti, ciao, ci ciao. Sentiamo lunedì prossimo. Wombat. Go Hal and Paul Vary. Radio Wombat. This is Radio Wombat. L'uomo allo mio servizio non teme né piova né sole né fuoco né vento. Lo qua la servizio. Siamo tutti allo pari. Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Vabbè. Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine da grandi pupe. Taccone! Nalza le insegne! Non le tengo! Bene! E tu levali in alto!